Con riferimento, diciamo, alla situazione attuale, le notizie che abbiamo registrato nei giorni scorsi rappresentano, diciamo così, un peggioramento di quella che è la situazione per quanto riguarda il monitoraggio dei casi Covid all'interno della casa circondariale. Durante tutta l'estate, quindi, diciamo così, la casa circondariale di Bologna in un modo o nell'altro era riuscita a convivere con il tema dei contagi all'interno del carcere. Perché anche durante l'estate c'erano stati dei casi di positività con riferimento a quelli che erano i nuovi ingressi in carcere. Una manciata di casi, diciamo così, sono sempre stati presenti, però naturalmente venivano adottate tutte le cautele e gli accorgimenti del caso per circoscrivere la diffusione del contagio e quindi garantire che queste persone potessero essere monitorate prima di poter essere associate agli spazi detentivi. Nell'ultimo periodo invece, nelle ultime giornate, abbiamo avuto notizia di casi di positività all'interno delle sezioni detentive e questa naturalmente è una notizia che non può che preoccupare. Sussiste naturalmente uno stretto coordinamento fra quelle che sono le autorità sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria a livello locale. È operativo un protocollo sanitario, no? Che prevede una netta differenziazione dei percorsi e quindi con riferimento a questi casi si è proceduto a isolare le persone che sono state riscontrate positive, che si sono positivizzate e anche si sta attuando un attenzionamento di quelli che sono i contatti stretti. Allo stato quindi parliamo di almeno 10 persone all'interno delle sezioni detentive e poi naturalmente la situazione va monitorata, però purtroppo è una situazione che potrebbe essere anche suscettibile di peggioramento. E invece per quanto riguarda il personale che lavora all'interno del carcere, quindi gli operatori? Sì, nell'ultimo periodo si è appreso da note di sigle sindacali della Polizia Penitenziaria che si sono riscontrati anche casi di positività anche per quanto riguarda gli operatori. Ne sono poi naturalmente, no, essendo la comunità penitenziaria così caratterizzata, sono profili che devono farci mantenere l'attenzione alta perché necessariamente potrebbero essere anche intimamente collegati. Si parlava durante la fase 1 anche di una difficoltà di reperire dispositivi di protezione individuale. In questo momento qui c'è ancora questo problema qui o invece... No, allo stato questo profilo non viene rappresentato come particolarmente critico e comunque sia c'è sempre la possibilità, laddove fosse necessario un ulteriore approvvigionamento attraverso anche i canali istituzionali, di chiedere interventi in questo senso. Ecco. Anche nella prima fase c'è stata collaborazione, il comune per certi versi ha fornito una donazione di dispositivi di protezione individuale alla luce di una richiesta espressa della Casa Circondariale di Bologna. Voi avete proposto in una nota stampa di accogliere la liberazione anticipata speciale e la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene fino al 31 dicembre 2021. Sussiste ancora questo problema di sovraffollamento che si era avuto nella fase 1? Come si sta gestendo? Verrà accettata questa proposta? Ma allora, per quanto riguarda, diciamo così, l'attenzione che deve essere sempre molto alta con riferimento appunto a far sì che ci possano essere le condizioni essenziali, appunto perché gli interventi che vengono posti in essere all'interno degli istituti penitenziari possano essere efficaci, ovviamente è fondamentale perseguire e direi anche, no, doveroso e prioritario perseguire quello che dovrebbe essere l'alleggerimento degli attuali numeri delle presenze, proprio affinché si possa in questa maniera creare le condizioni per la tutela del diritto alla salute delle persone detenute. Sicuramente adesso c'è stato un primo intervento per certi versi analogo, no, a quello della prima fase, per quanto un intervento governativo che però risulterebbe anche alla luce, no, di quello che è l'andamento dei contagi, no, negli istituti penitenziari su scala nazionale, allo stato risulterebbe inadeguato, quindi l'auspicio è che ci possa essere anche sulla base di quelle che sono state le indicazioni del garante nazionale, ci possa essere in sede di conversione del cosiddetto decreto ristori un ampliamento della portata degli interventi e della platea dei destinatari. Come garanti territoriali si è voluto porre l'accento su quelli che possono essere interventi politicamente praticabili, l'auspicio è che si possa andare in questo senso, ecco. È un tema che naturalmente non compete al livello dei garanti territoriali, speriamo che la situazione riesca a rimanere sotto controllo.